sono solo le presentazioni, sì, le presentazioni, i due campioni. Yeah. Tia, qui è il mio DJ, e senza di lui io come scriverei? Nykos e la sua tecnica, Nykos col suo flow e la sua metrica. Mi chiedi chi è il migliore, sono l'unico. Te sei meglio di me, io ne dubito. Nykos, l'unico MC che non metti alle strette. Non fumo canne né sigarette. Sono unico ad essere diverso, ok? Sembrerà un controsenso, ma voi ascoltatemi lo stesso, perché io parlo di vita, di rap e di sesso, e lascerò il mio commento impresso. Ok, sto rap è sperimentale, non farà manco troppo male, ma tutti ascoltano il commerciale, quindi tanto vale. Purtroppo il suono si trasforma, così come la scimmia ha cambiato forma. Anche per me il rap è vero di Tupac, ma di questo passo e col tempo si vedrà. I bei tempi però non sono da scordare, così come la storia, molte cose da insegnare. Questo è il mio pensiero, Nykos, Borgo Vittoria, e con le rime passerà la storia. E Nykos qui che vi carica, fino a quando il beat no, non si scarica.